Giovanni. 24 aprile. Da tre giorni viene durante la notte una bestia, cosa per niente simpatica, un qualche cosa come un piccolo bufalo o un toro, tutto nero, ne sono molto spaventata. Esso saltò sul mio letto, ed io ebbi tanta paura, l'acqua santa però mi ha aiutato e quello se ne andò subito. 25 aprile. Esso venne tre volte durante la notte, in lui non si riesce a vedere niente di umano. 26 aprile. Quello venne di giorno. Ha un volto umano, ma anche tutto nero, pauroso, potrebbe anche essere il diavolo. Ma non voglio lasciare spazio a questi pensieri. 27 aprile. Quello era già in camera mia quando volli andare a dormire. Mentre recitavo le preghiere della sera esso saltava e correva attorno a me e mi colpiva in modo che decisi di non andare a dormire e mi rifugiai fuori sul corridoio. Egli rimase nella mia stanza. Dopo un certo tempo io rientrai. Non si vedeva niente. Ma ero appena dentro che quello si gettò su di me e mi gettò per terra. Credetti di morire dalla paura, la sua faccia era proprio vicina alla mia. Io, vattene via. Io ti voglio aiutare, ma non toccarmi più. Allora esso incominciò a urlare e si tirò indietro. Io, dimmi, sei un'anima? Lui, sono Giovanni. Io, perché sei come una bestia? Lui, la mia passione. E urlava intanto. Io, che cosa devo fare per te? Lui, tutto quello che puoi, io soffro. Poi incominciò a saltare come un forsennato o meglio come una bestia infuriata. 12 maggio. Giovanni viene anche molto più del necessario, sempre su quattro zampe, e come una bestia cattiva, ma il volto diventa un po' più umano. La sua pelle è bagnata, come venisse fuori dall'acqua. 17 maggio. Dovetti subire cose tremende, la tremenda paura e l'angoscia mi stancano tanto. 22 maggio. L'indesiderato ospite viene tutte le notti, adesso si può riconoscere bene la sua faccia, e il dottor G, che una volta pareva un gran bravo uomo. Non si tira fuori niente da lui. 25 maggio. Lui diventa sempre più spaventoso e di conseguenza io ho sempre più paura. Mi ha urlato, perché non mi dai niente? Io ti do quanto posso. Allora si gettò sul mio letto come una furia. Ciò che accadde non so più. Quando riuscii a riavermi egli si rincantucciò in un angolo. Mi sono alzata e mi sono messa a pregare accanto a lui, poi se ne andò via subito. 27 maggio. Egli venne di giorno. Gli chiesi, perché non riesci a trovar pace? Lui, i peccati nascosti. Di più non riuscii a capire. Io, allora che cosa posso fare per venirti in aiuto? Lui, flagellati. Io, tu chiedi molto da me, mentre solo il vederti è un tormento abbastanza grande. Luigi, soltanto così liberi teme. 30 maggio. Venne camminando su due piedi, però ha ancora quella pelle. Egli va attorno per la camera cercando. Finalmente sedette per terra e mi guardò fisso. Non fu una cosa facile comunque potei così osservare che i suoi occhi avevano perduto quella espressione cattiva. Io, adesso ti aiuto di più. Lui, sì. Io, perché non sei venuto ancora prima da me? Lui, non mi era ancora permesso. Io, perché, vieni da me. Ci sono pure altre persone, che ti possono aiutare. Lui, tu ci sei più vicina. Io, e come vi sono più vicina? Lui, la tua anima. Io, ma come? Lui, tu vivi come non vivessi? Poi disparve, Io avrei voluto domandargli ancora altre cose. 4 giugno. Viene tutti i giorni, ma è muto. Adesso non ha più la pelle di animale, ma qualche cosa di grigio addosso. 2 giorni di perfetto riposo, che mi fa tanto bene. Potei di nuovo osservare che mi riesce molto seccante scrivere ciò che riguarda me stessa, ma anche questo fa parte del tutto. 8 giugno. Quello venne in aspetto completamente umano. Gli chiesi, ora sei proprio come una volta, ma dimmi, perché eri come una bestia? Lui, la giustizia di Dio vede del tutto diversamente dagli uomini. La mia anima ha avuto fame, io ho cercato, ma non ho trovato. Io, come hai potuto essere salvato? Lui, all'ultima ora io ho creduto. Io, dimmi qualche cosa dell'aldilà. Lui, è la chiarezza e il riconoscimento. Chi ha seminato raccogliere? Io, che cosa è che ti tormenta di più? Lui, il desiderio. Io, il desiderio di Dio. Giovanni, io mi trovo nello spazio intermedio. Io, nel purgatorio? Lui, no. Ha detto ancora qualche cosa, ma è impossibile capire, forse suonava come, perciò, ma non lo posso dire con esattezza. 10 giugno. Io, dimmi ancora una volta dove sei precisamente? Lui, nello spazio intermedio. Io, che cosa vuol dire? Lui, fra oscurità e splendore. Io, allora sei presto libero? Lui, sì. Io, tutto questo tempo non ha pregato nessuno per te? Lui, sì, il torrente del sacrificio continua a scorrere. Salvezza per coloro che ci hanno creduto. Io, vuoi dire la Santa Messa? Lui, sì. 12 giugno. Egli venne tutto luminoso e contento. Io, ma oggi tu sei uno splendore. Lui, tu mi hai dato molto. Io, puoi dirmi anche perché da principio venite così ripugnanti? Sapevi di aver l'aspetto di un bufalo? Lui, sì. Ed è questa una parte del castigo? Lui, il peccato. Io, posso fare qualche cosa perché le anime non vengano più da me? Il torrente è incessante. Io, dammi almeno un segno che tu sei stato da me, perché si creda finalmente. Egli mi venne molto vicino e mi sussurrò in un orecchio, un sacrificio di più per noi. E sparì credo per sempre.